Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E benvenuti anche a questa puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che parla del giornalino Il Pioniere a fumetti, ma non solo, perché il giornalino diretto da Rodari, in particolare dal 50 ai primi anni 60, era denso anche di parti scritte che erano racconti, romanzi, molto spesso si riportava alla dimensione dei ragazzi libri come Moby Dick e la balena bianca o Jack London, il richiamo della foresta. Altre volte invece erano proprio notizie legate a tutti i settori dello scibile, dall'astronautica fino alla mineralogia, dagli animali fino alla storia o alle culture. Molta attenzione per esempio alla cultura degli indiani d'America, i nativi visti come alternativa al capitalismo americano. Un atteggiamento che avrebbe in qualche modo preceduto quelle enciclopedie quali il Milione, quando eravamo ragazzi erano utilissime per schiopizzare qualche notizia per fare le famose ricerchine per la scuola. Qui non si tratta di fare delle ricerchine scopiazzate, si trattava di portare informazioni e notizie a una popolazione giovanile del dopoguerra assolutamente tenuta nell'ignoranza o peggio imbevuta della propaganda del ventennio fascista. Quindi tutto un universo di informazioni che arricchivano il giornale, come ci racconta in queste battute Carlo Zaia, che è il segretario del CRAP, il Comitato Ricerche Associazione Pionieri. Dentro ci sono tutta una serie di argomenti che sono molto interessanti e dentro trovi rubriche, trovi che sei dalla parte degli indiani, non sei dalla parte degli americani, sei dalla parte dei nativi africani che combattono i colonialisti, e poi c'è l'enciclopedia universale, Darwin, tutto sto mondo che l'avventurosa storia del mondo, e vai avanti così. Una manciata di sassolini. Avete mai provato a raccogliere e ad osservare con un po' d'attenzione i sassolini che si trovano lungo le spiagge dei torrenti o lungo i sentieri di montagna? Ce n'è d'ogni forma e colore e scegliendoli con cura potete farvi senza fatica una bella collezione di minerali. Se provate a spezzarne qualcuno, potete avere la fortuna di trovarci dentro una cavità tutta ricoperta di magnifici cristalli limpidi e trasparenti, come il vetro, oppure lucidi e splendenti come metallo. A guardarli bene vi accorgerete che, pur essendo senza vita, i minerali con le loro forme regolari e geometriche e con le meravigliose loro tinte gareggiano in bellezza con i fiori e gli animali più belli. Essi sono costituiti o da uno solo dei 92 corpi semplici o elementi, come ad esempio l'oro, il rame, lo zolfo, oppure, più comunemente, dalla svariatissima combinazione di due o più elementi. L'oro, che si trova anche in Italia nelle sabbie di alcuni fiumi, come il Ticino, sotto forma di polvere, granelli, pagliuzzi e pepite, non ha simpatia per gli altri elementi e perciò non si combina con essi se non raramente. Il rame, lo zolfo, eccetera, invece, si trovano non solo come l'oro allo stato di corpi semplici, ma anche assai. I sommozzatori hanno 2000 anni. La prima testimonianza storica sui sommozzatori è di un antico storico greco, Tucidide. Egli, infatti, descrivendo l'assedio di Siracusa, racconta di tuffatori ateniesi che segavano sott'acqua i pali delle difese siracusane, i quali pali invisibili avevano il compito di sbarrare l'accesso al porto. A quei tempi, per nuotare sott'acqua, si usava un semplice tubo che i sommozzatori stringevano in bocca e che emergeva dalle acque. Il principio era stato ripreso dall'osservazione degli elefanti. Ecco come lo spiega Aristotele. Come i tuffatori hanno talvolta degli apparecchi attraverso i quali possono aspirare l'aria della superficie, così gli elefanti sono dotati dalla natura di un naso allungato e quando hanno bisogno di attraversare l'acqua. Enciclopedia del pioniere, ovvero i segreti delle parole. Dinamo è il nome di una macchina meravigliosa. È notte, voi entrate in una stanza, girate un piccolo interruttore e tac, la luce è fatta. Fuori nelle strade grandi lampade fanno piovere intorno la loro luce. I tram corrono sui binari, le macchine dei cinema proiettano film a migliaia di spettatori. I negozi sono illuminati a giorno e vostra madre prepara la cena sulla cucinetta. Dinosauro è il nome con il quale si indica una famiglia di mostri preistorici vissuti sulla Terra milioni di anni prima che l'uomo facesse la sua apparizione. I dinosauri vissero in quell'epoca che gli scienziati chiamano Mesozoica o età dei rettili. Infatti, i dinosauri erano rettili a sangue. Dunque, il valore della conoscenza anche in un giornalino prevalentemente a fumetti. Sì, la scienza, la storia, il sapere come luce che illumina il buio della guerra, del ventennio fascista, una sorta di nuovo illuminismo che era presente sicuramente nella concezione di questa sinistra del dopoguerra che aveva il compito appunto di riformare o formare una coscienza nazionale. Il mito della scienza in particolare come emancipazione dell'uomo, tutta la scienza è buona, tant'è vero che in questa fine anni 50 nasce un personaggio a fumetti, a Tomino, che appunto è l'atomo buono, in un momento in cui peraltro c'era l'incubo della bomba H, quindi c'era l'incubo della bomba nucleare. La cosa ci può fare anche meraviglie, ma naturalmente allora c'era l'atomo buono di pace e l'atomo di guerra cattivo, come ci specifica Marco Fincardi, storico dell'Università di Venezia. Era vista come anche questa come una possibile alternativa, c'era l'idea che il nucleare potesse essere lo sbocco della forza positiva del futuro, da contrapporre invece alla fabbricazione delle bombe. Il fatto che tutti i paesi che costruivano centrali nucleari intanto fabbricassero anche bombe atomiche era visto come un legame necessario. Del resto l'Italia, così anche lei aveva le sue tre piccole centrali nucleari alla fine all'inizio degli anni 60, ma che non avevano dato vita alla costruzione di una bomba atomica nel caso italiano, anche se sul nostro territorio avevamo quelle della NATO. Questa cosa era così, era visto anche l'idea della centrale nucleare, dello studio dell'atomo, qualcosa del genere, come qualcosa che non aveva necessariamente implicazioni militari, ma c'era tutta questa idea dell'andare sulla Luna, dell'andare nello spazio, cose del genere, che era visto come positivo, naturalmente anche perché ancora fino a metà degli anni 60, fino al decollo poi del progetto Apollo negli Stati Uniti, c'era così, finché la NASA non è competitiva rispetto ai missili sovietici, la conquista dello spazio sembrava una cosa più legata ai progetti sovietici di navigare nello spazio, e quindi veniva vista come una cosa progressista dove i lavoratori erano all'avanguardia con la tecnologia che producevano rispetto alla tecnologia di guerra, si diceva, prodotta dal capitale. Quindi Yuri Gagarin, il primo grande eroe dello spazio. Chiaramente, certo. Volare! Oh, cantare! Oh, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Dunque il pioniere con questo materiale non di fumetti, materiale informativo, formativo, divulgativo nella scienza e nella storia. Questa voglia di raccontare il mondo che ci sta intorno e i grandi protagonisti che l'hanno indagato non si esaurisce con il pioniere con gli anni 50, ma in qualche modo trasmigra nel tempo e, cambiando il linguaggio, cambiando i costumi, cambiando anche il tipo di segno grafico, però lo ritroviamo per esempio oggi nelle graphic novels, che sono questi fumetti che vanno a indagare nella storia, dalla questione curda fino alle stragi di Stato, ma anche nei grandi personaggi che hanno caratterizzato momenti epocali della nostra storia contemporanea e non solo. E non solo quando parliamo per esempio del 600 di Galileo Galilei, con il testo, il grafico di Paolo D'Antonio, con proprio la sua graphic novel dedicata niente poco di meno a Galileo Galilei. E quindi sentiamo prima Paolo che racconta del suo lavoro e scopriremo che un uomo che arriva dal mondo della scienza e della tecnologia e che sceglie il fumetto come modalità di racconto, e a seguire Adrian Farteide, che è un divulgatore scientifico nonché blogger, quindi rimaniamo nei linguaggi contemporanei. Paolo D'Antonio, autore, anche fumettista, grafico, ecco, disegnatore, ecco, come nasce Graphic Novel? Ma personalmente, allora, io sono un disegnatore da quando sono piccolo, quindi diciamo questo fumetto, questa graphic novel unisce entrambi gli aspetti della mia formazione. Lasciai gli studi in fisica per dedicarmi al fumetto, che poi è la mia attuale passione principale, e quindi insomma questa pubblicazione mi ha dato l'occasione di riunire ancora una volta le mie passioni. Il libro fumetto di Paolo D'Antonio presenta Galileo Galilei, considerando anche ciò che di lui è stato detto tra verità e falsità. Un personaggio che ha fatto la storia della scienza, sfidando persino la Chiesa, che lo portò ad abbiurare dinanzi all'Inquisizione nel 1633. Eppur si muove, quindi, Galileo Galilei l'ha detto o non l'ha mai pronunciato? Sicuramente a Galileo sarebbe piaciuto, però in realtà non l'ha mai detto. Questa frase ha origine da Giuseppe Baretti, che a Londra, circa mezzo secolo dopo, aveva scritto questo trattato in cui difendeva Galileo in qualche modo dalla biura, dicendo che ha detto "eppur si muove" alla fine del processo. In realtà, ovviamente, se avesse detto qualcosa del genere, il Santo Ufficio non l'avrebbe semplicemente lasciato andare via. Però è nel personaggio in qualche modo di Galileo, se vogliamo, perché era molto carismatico, ma anche molto molto cinico e un burlone. Molto spesso capitava che poteva prendere in giro il suo interlocutore senza che questo neanche se ne accorgesse. Solo quell'altro lo applaudiva contento e dopo mesi si accorgeva di essere stato burlato. Com'è possibile raccontare oggi la figura di Galileo Galilei attraverso un blog? Beh, ecco, oggi Galileo sicuramente si intratterrebbe molto con blogger, con i social network, perché se c'era una cosa che amava tanto era far vedere le cose, raccontare e coinvolgere le persone nell'esperienza dello scoprire l'universo. Quindi, al di là della teoria che lui esponeva, spesso prendeva le persone e gli faceva vedere attraverso il cannocchiale, o semplicemente gli faceva fare le esperienze, gli esperimenti. Io credo che oggi si possa raccontare Galileo usando gli stessi meccanismi, quindi sfruttando un'esperienza diretta. Si innamorò, il sole al tramonto, calando sul mare, con nuvole rosse, si mise a giocare, le macchie nel sole, allora scoprì, e per questo tutti oggi cantano così. Thank you. Ma torniamo agli anni 50, ai fumetti di quell'epoca. L'iniziativa rodariana di accompagnare i balloons con dei momenti di divulgazione scientifica e storica ebbe un tale impatto che anche il vittorioso storico avversario del pioniere sul versante cattolico, anzi dell'azione cattolica, pensò bene di inserire nel suo foglio uno spazio analogo e venne affidato a un giovane maestro, il maestro Manzi, che poi conoscemmo nella prima TV italiana nel suo Non è mai troppo tardi, che mise una rubrica, costruì una rubrica, Occhi sul mondo, di cui ci parla la ricercatrice dell'Università di Borgogna in Francia, Patrizia D'Antonio. Inizia anche la collaborazione con il settimanale curato da Domenico Volpi, Il Vittorioso, settimanale per ragazzi. Lui anzi cura la rubrica di divulgazione scientifica Occhi sul mondo. Collabora inoltre nel 1953 come assistente presso la Scuola Sperimentale del Magistero di Roma a fianco del grande pedagogista famoso Luigi Volpicelli, famoso perché aveva studiato a fondo peraltro il sistema scolastico sovietico e aveva fatto conoscere anche la pedagogia russa, Vygotsky, che aveva marcato molto con la sua opera sulla formazione dei concetti, lo stesso Manzi. E questo è l'inno o del corpo sciolto, lo può cantare solo chi carca di morte. Se vi stupite la reazione strana, perché carcare soprattutto è cosa umana. E dallo sguardo di ieri sull'editoria per ragazzi del dopoguerra, nella contesa tra il pioniere a sinistra e il vittorioso dell'azione cattolica, ci spostiamo invece ai giorni nostri, perché questa attenzione verso i ragazzi e l'informazione su un vasto mondo intorno a noi certamente non è scemata, ma si ripresenta, muta e cambia col cambiare dei tempi. Oggi l'informazione, per esempio, sugli animali è molto più disincantata, forse con un linguaggio più agile e adatto ai ragazzi. Questo per esempio si evince sfogliando le pagine di Storie Bestiali, di editoriale Scienza, dell'autore Papi, che è biologo e quindi in questo caso anche scrittore per giovani. Lo ha intervistato alla nostra redazione Gli Ucali del Polverone Magico, e a seguire Maga Rossina e Maga Zebrina ce ne leggono un passaggio abbastanza particolare. Siamo al telefono con l'autore di Storie Bestiali, il biologo Papic Genovesi. Benvenuto! Ciao, buongiorno! Ciao Papic, grazie del tuo tempo! Come hai pensato all'impostazione del libro, organizzandolo per aspetti della vita degli animali, inserendoci gli animali più vari e le curiosità? Ma guarda, l'idea è nata ragionando con Sandro, che ha molta più esperienza di me di libri per bambini. Volevamo proprio raccontare un po' tutta la vita degli animali, ovviamente scegliendo degli esempi, delle spigolature per far vedere come è la vita, come sono gli adattamenti degli animali al mondo. E quindi abbiamo cominciato a raccontare gli elementi più ovvi, dal cibo, gli amori, però abbiamo anche parlato di episodi, insomma, di aspetti della vita degli animali che non sempre si raccontano, per cui la cacca degli animali, come si curano, fino ad arrivare alla morte, quindi senza nasconder nulla, quindi come fanno i piccoli, come crescono, come li proteggono, ma anche come gli animali muoiono e qual è la morte nel mondo degli animali. L'hai fatta grossa! No, non fate quelle facce disgustate! Conoscere le cacche degli animali permette agli studiosi di avere molte informazioni su di loro, al fine di capire cosa mangiano, che abitudini hanno e che zone frequentano. Gli escrementi sono di solito composti da parti di cibo non digerito, ossa, peli e piume, unghie, sostanze legnose, muco, batteri e acqua. Gli erbivori in genere producono quantità più grosse di cacca, che è molto ricca di materiale vegetale. Al contrario, le cacche dei carnivori sono più piccoli e puzzolenti. Nel regno animale non sono certo pochi casi di coprofagia, cioè di animali che mangiano escrementi. Gli scarabei stercorari, ad esempio, fondono la propria alimentazione sullo sterco altrui, tanto da prenderne il nome. I conigli invece consumano i propri escrementi appena prodotti, così da avere una doppia digestione delle fibre vegetali che mangiano. Appena nati, elefanti e koala mangiano un po' di cacca della mamma. La cacca è anche uno strumento di comunicazione. È il caso delle iene, che fanno due tipi di cacca fra loro molto diverse per segnalare alle altre iene del branco che in quel luogo hanno già mangiato loro e che quindi c'è rimasto poco da cercare. Emettono una sostanza scura e molto puzzolente, mentre per marcare il proprio territorio fanno delle cacche bianche. Il colore è dovuto al fatto che mangiano ossa che rimangono visibili per lungo tempo. La cacca più preziosa al mondo? Ah, è di certo quello dello zibetto delle palme, che ha l'abitudine di sgranocchiare bacche di caffè direttamente dalla pianta. Da queste bacche parzialmente digerite, defecate e essiccate, si ricava una varietà di caffè rara e costosissima, chiamata Kopi Luwak, solo per veri intenditori. Il lombrico del genere degli anellidi ha un inconfondibile colore rosato. È una creatura curiosa. Per cominciare, ermofrodito, cioè possiede sia gli organi genitali maschili che quelli femminili. Respira, ma senza i polmoni, semplicemente assorbendo l'aria contenuta nella terra bagnata. I lombrichi possono vivere anche anni, spingendosi fino a 2 metri di profondità per nutrirsi delle sostanze presenti nel terreno. In questo modo i lombrichi rendono fertile il suolo. I loro escrementi portano gli elementi nutritivi e minerali in superficie, mentre i tunnel che scavano fanno prendere aria al sottosuolo. Tra gli insetti scopriamo lo stercoraro. Ma che bontà! Gli scarabei stercorari sono fondamentali per l'ecosistema perché riescono a smaltire grossi quantitativi di escrementi, fertilizzano i pascoli e riducono il contagio dei parassiti. Per loro riuscire a trovare quei profumati spuntini disseminati soprattutto dai mammiferi erbivori è una vera manna dal cielo. Il bottino verrà raccolto formando una palla e poi agilmente trasportato fino alla tana. Una tana con una galleria lunga ben 2 metri e alla cui fine è presente uno spazio più ampio nel quale ammassare il suo malloppo. Qui la femmina deporrà le uova, garantendo così un riparo sicuro e una bella riserva di cibo ai piccoli. Tra i pesci ora! Tra i pesci troviamo il pesce pappagallo, abitante dei mari caldi e tropicali di tutto il mondo. Fa parte della fauna più tipica delle barriere coralline. Il pesce pappagallo, dalla coloratissima livrea, deve il nome al suo becco, composto da forti mascelle da denti duri e robusti. Con questo becco riesce a staccare e sminuzzare pezzi di corallo per estrarne le alghe e i polipetti, di cui è ghiotto. Alla fine espelle il corallo sotto forma di cacca bianca e sabbiosa. Secondo i ricercatori, ogni anno un singolo esemplare di pesce pappagallo gigante riesce a produrre 4 quintali di questa sabbia. Andiamo a scoprirne qualcuna dei mammiferi. Koala. Per quei coccoloni del koala, La base dell'alimentazione è costituita dalle foglie di eucalipto, tipico albero molto diffuso in Australia. Le foglie, dal caratteristico profumo balsamico, risultano estremamente tossiche durante il periodo in cui i koala sono piccoli. E sono piccoli davvero! Al momento della nascita un koala pesa circa 5 grammi ed è alto 2 centimetri. Dopo l'allattamento sono ancora privi della flora intestinale e per potersi costruire le difese immunitarie necessarie alla digestione della pianta dovranno mangiare, udite udite, le feci della mamma. E ora un uccello cagone, il pinguino di Adelie. Dopo aver posizionato il proprio fondoschiena fuori dal nido, il pinguino di Adelie fa esplodere il proprio bisognino cercando di spedirlo il più lontano possibile, fino a 50 centimetri dal nido, cioè più o meno la loro altezza. Rispetto a noi umani, questi pinguini riescono a tenere la pressione interna fino a 5 volte di più e ciò permette loro questi lanci olimpionici di pupù. Il motivo? Semplice. Questo pennuto antartico è estremamente pulito e sa per istinto che per la salute della prole l'igiene è un fatto importantissimo. E ora una curiosità. Il rito della cacca, chiamato dagli antichi greci cavallo di fiume. L'ippopotamo è considerato un superbo nuotatore e in acqua si muove con un'estrema leggiadria, nonostante il suo peso da adulto che può variare da 1500 fino a 1800 kg. Anche se sembra impossibile, il parente più vicino all'ippopotamo non è il maiale, ma risulta essere la balena. E nonostante la sua apparente tranquillità, non è di certo un tipo proprio raccomandabile. Ha moltissimi denti, 40, e una bocca capace di spalancarsi a 150 gradi che incute un gran timore quando sbadiglia fragorosamente, raggiungendo come re della foresta i 115 decibel. Soffre molto il caldo e passa gran parte del tempo nell'acqua dei laghi e fiumi. Pensate che suda 5 volte di più di noi esseri umani e il suo sudore, oltre a rinfrescarlo, svolge un'azione protettiva contro i raggi del sole. L'ippopotamo, quando sta sulla terraferma, ha un modo proprio curioso di defecare. Spruzza infatti con vigorosi colpi di coda, come un potente frullatore, i propri escrementi tutto attorno a sé. A volte questo comportamento è anche un segno di rispetto. Il combattimento fra ippopotami è spesso violento e può risultare mortale. A tal riguardo è curioso che fra i suoi comportamenti ci sia la defecazione di sottomissione. Tale operazione consiste nel mostrare il proprio poderoso fondoschiena verso il muso del maschio dominante e spruzzare in giro la propria pupù. È un evento frequente perché gli ippopotami maschi cominciano ad andare in amore al compimento del 12° anno di vita e per evitare di essere uccisi dagli adulti in quanto possibili rivali amorosi si spendono in spettacolari defecazioni rituali. È un messaggio che possiamo interpretare come: va bene, scusami, giuro che non lo faccio più, sei tu il capo. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman?